stessa altezza, stesso colore, e fai linea, fai tutto linea, capito? Ah, scusa un attimino, se ti pongo Romeo non va bene. Certo che va bene, io sto parlando di linea, la linea completa di quelle radio è la radio, per esempio, un 140, quindi fai 140, il suo accordatore automatico è la T250, sempre di linea, uguale alla radio, preciso, identico, stesso colore, stessa altezza, stesso piedino, uguale. Poi c'è l'alimentatore, il PS50, stesso colore, stessa lunghezza, stessa altezza. Poi c'è la colonnina, ok, l'SP230, stesso colore, stessa altezza, stessa linea. E fai tutta la linea completa come c'ho io. Sì, mi diventa un giambotto, mi diventa, purtroppo. Non dispongo di tutta questa cosa. Sarà tanto che mi prendo quello. Io ti sto parlando solo la radio, solo la radio è una radio normalissima, quante cosa ti posso dire? Quindi 140 può essere, ehi, quanto è un base tipo Midland che c'ho io, dai, il 574, una cosa così, non è molto grande. Se poi fai linea, allora devi avere spazio, se no non ci sta niente, capito? Non lo so, Anto, non lo so, una volta che poi allineata, bella, ruspante, fatta veramente da un tecnico con tanto di garanzia, allora decido quanto darla, non lo so. Per il momento non sto vendendo niente io personalmente, però se poi tu, quando sei pronto, hai necessità di una di quelle radio, già te la procuro io, non ti preoccupare. Avanti, Antonio. Vabbè, secondo me, se vuole per famiglia, a lui va bene un 140, oppure un 180, normale. Poi, vabbè, l'alimentatore ce l'ha, c'è di quelli 30-40 ampere, del resto non se ne fa nulla, quindi va bene così. E come la penso io, il discorso è questo: quante risposte a spendere lui, bisogna avere, e quello è il problema. Se lo paga in contanti, se lo paga avanti, questo non lo so, ma dipende. Secondo me, tanto aver preso quel tipo di apparato, la verità, perché l'ho avuto esperienza io e mi sono trovato veramente bene, l'ho avuto addirittura non poco, no, penso da 15-20 anni, la verità, il Kenwood. Prima ho cominciato con 80, poi ho preso 140, eccetera eccetera. Ho avuto problemi di ricezione e l'ho dovuto eliminare, il discorso è quello lì. E mi è dispiaciuto veramente, guarda, la verità, con 80, quello che mi ha dato Claudio, mi è dispiaciuto veramente venderlo. Perché era l'unico 80 con lo GBP 4 toni della M. E lì mi hanno rotto le balle a Olbia, e toglielo, ho capito. E che altro? Perché mi hanno sessionato al telefono e un apparecchio non serve a niente, qua e là, serviva, valeva 100 euro, eccetera, eccetera. Mi hanno rotto veramente le balle, la verità. Quindi, Anto, dammi retta, prenditi un 140, un 180, fa ghiso di Baldi e Biazzi, basta che tu lo prendi, e finito di rompere le palle, con tanti apparecchi, basta uno, e ti prendi al limite, se non ti puoi permettere un alimentatore a 50 ampere di quelli della Kenwood, pigliati quelli cinesi, costano 20 euro, e sei tranquillo. Se fai il fascia, la verità, dipende da te, scegli tu. Non andrà bene quello che c'ho. Io c'ho, ci attacco pure roba che tira e me la porta bene. Io vedo che funziona, poi non lo so. E c'è quel che fa. cosa vuoi che dica io? Non lo so. Se ti va bene così, cosa vi posso fare io? E la verità, guarda, mi sono preso, ho speso 500 euro, quasi, figurati, e ce l'ho qua a casa mia. Se io, per dire, te lo presto a casa tua, se non è come cambi tu di ragionamento, grazie di antenne, per dire, cosa hai già riciclato, lo sai che la cosa è totalmente diversa, il discorso è quello. È tutto lì. Cioè, come con Marchino una cosa, ma con un apparecchio di cametti con un'altra, la ricezione, la trasmissione, cosa del genere, è tutto un'altra cosa, il discorso è quello lì. Oh, vabbè, io decidi tu, sono solo di tuoi, non sono solo di miei, quindi devi fare da male. Io mi intrometto in ciò che ti piace a te, il discorso è quello lì. Comunque sia, secondo me è meglio di un apparecchio CB, è meglio per iniziare un 140. Dopodiché, vedi, su 80, quello che è, un 440, che sono di bei piazzi. Comunque, a un certo punto dici, beh, non me ne fate più niente, di quello non me ne frega niente, come è capitato a me. Il primo qua, siccome io ho problemi qui dei tarici, e Claudia lo sa, ti può confermare, me l'ho venduto per quello io 70 e anche 140 a un certo punto, che mi è dispiaciuto, se non l'avrei tenuto, a un certo punto, cioè, ricevere il quadrame ogni giorno si era 9 uscire di testa, che non era possibile, dai. Però io lo so, te lo può anche dire, non c'ho un altro. Ehi, questo è 140, tu, la differenza la senti? Come ti avete tanto meglio, la senti la differenza? Non fai buba, non c'è niente da fare. Tu. Ehi, già la sento già la differenza. Spinge. Anche quello la spinge, ma non come questo. Anche quello andava benissimo, però questa è un'altra dose, ti ascolto come che sei qua, capito? Sia come ricezione come trasmissione, è un'altra cosa, tu poi sono scelto, cioè, quando io sento lì, ho comprato un Galaxy Saturn Echo a 220 euro, a 200 euro, cazzo va a 20 euro, va a 50 euro in più, ti compro meglio a 140, e cioè io capisco e sono solidale con chi fa queste cose, per carità, ognuno fa quello che vuole, però io per comprare un Galaxy Saturn Echo a 200 euro, per 50 euro in più, mi compro un 140, ma senza un vai dubbio. Ma, cavolo, per prendere tutti quei soldi preferisco prendermi quella radio, capito? Per, cioè, mica mi comparete una radio così, preferisco per spendere i soldi in quel tipo di radio lì. Che stanno vendendo, cioè con gli impianti di hi-fi di casa, per dire, ti faccio un esempio, dai, che cosa un sacco, cioè ci stanno facendo pagare un sacco di soldi, io con gli stessi soldi prendo un impianto con le contrafalle, ma che tocca puro che pompa, così è la stessa cosa, cioè per spendere tanti soldi così di balda, cioè preferisco per spendere i soldi in una radio che è valida, che pompa come una bestia. Io sono d'accordo con te, però ti ripeto, una persona che compra un Galaxy Saturn Echo, ripeto, io sono d'accordo con tutti, ognuno fa quello che vuole, però io sto parlando sempre di baracchino, perché un baracchino è, non c'entra a fare, preferisco 50 euro in più comprarmi una radio del genere che mi dà più soddisfazione, no? Non sei d'accordo, Antonello? E Antonio è andato a bagnarsi il becco, capito, Antonio? Io sono di questo parere, poi no, per carità, ripeto, ribadisco, ognuno è libero di fare ciò che vuole, però io la penso così. Sì, ma anche io la penso così, la stessa cosa è come ti ho detto, perché a me mi piace fare muro. prendemmo un impianto buono, forte, che abbia un suono spettacolare, però che lo pago con gli stessi soldi, cioè. E quella, questa cosa è la stessa storia del baracchino. Soldi su comparendo una radio a vero, che pompa e tutte cose, cioè, è sempre lo stesso discorso. Purtroppo io ce l'avevo anche le radio un po' migliori di queste, cioè, già lo sai com'è andata a finire. E vabbè, pazienza, adesso agguanterò finché non mi prendo una cosa come si deve, tanto lo spazio viraggi, no? Certo che sì, Antonio, ma io te l'ho già detto, cioè se riesci a fare il sacrificio e comprarti una di queste radio, ti dimenticherai dei baracchini, secondo me. Sì, li userò lo stesso, ma non più come una volta, magari giusto per ascoltare, così papà che passaggio. Sì, è così. Però mi piace più dopo palmare, mi piace. Se pompa quello che c'è, va bene così per me. Ma guarda, se vuoi io te lo faccio sentire il microfono, non è un problema. Esce talmente bene che non c'è bisogno momentaneamente. Prima o poi ho la possibilità, però fai le 2060. Sì, ma mi piace più i microfoni palmari, la verità. Sono sempre stato abituato. Poi ognuno, ecco. Guarda, Anto, questo è il microfono normale, penso che vada bene lo stesso, no? Cosa ne dici tu? E già andaglia. Allora, questo è l'MC43, il microfono normale, suo, originale, penso che vada bene lo stesso. Ora sì, col processore attaccato. Sì, processore attaccato e microfono normale, da palmo. Va la grande, va. Poi chiaramente l'MC60 spinge di più. Adesso lo ti riattacco l'MC60. Via. Va bene, va. Come si fa il microfono, va bello, mi piace. Questo è l'MC60 e vabbè, questo è preamplificato e l'altro no. E l'altro è normale, ma già davvero matteggi però. Spinge benissimo, Anto. Fatto dire a uno, ti ho detto che c'ha esperienza in questa radio, perché io l'ho provato in tutte le maniere. Normale, è un prodotto professionale, è sempre diverso. Senta, tu direi, ci sono anche apparecchi, cosa ne so, tipo il coso che a me piace tantissimo, col Magnum, se no, beh, è un apparecchio che va bene lo stesso, niente da togliere, però lì è buono, che vuoi qua la grande qua. Certo che sì, va alla grande sì, io sono dall'86 che uso l'MC60 con questo radio, quindi posso dire che mi sono fatto una cultura. Tappa, ma i microfoni sono sempre quelli, no? Che cosa, Antonio? Non è mai venduto microfoni. Venduti e ricomprati. Capa, noi pensavo che... come si dice, pensavo che almeno uno ce l'avessi sempre da quell'epoca. Sempre, magari, guarda, io sono venuto a avere anche 5-6 MC60, anche non avendo 6 radio, però li tenevo, poi quando capitava che vendevo la radio, ti serve anche il 60, ok, dammi 50 euro in più e ti do anche l'MC60. Ah, ho capito, è bello, comunque già va bene. Io adesso non conviene non tenerli perché costano troppo. Tanto piano piano si fanno le cose, ci vogliono anni e anni di sacrifici. Piano piano, te l'ho detto, ti metti solo da parte e te la compri. No, non hai capito. Non ti conviene più tenerli. tenerli a te gli amici 60, così tanti, perché non ne vale più la pena. Cosa ne troppo? Sì, vabbè, prima che c'è anche una MP5, non ce n'è problema. Come fai? Ma c'è qualche cosa che bisogna farlo? Come funziona la cosa? Una MP5 non vuole, una MP4 non vuole. Metti il microattore e glielo metti a 8, punto. Ah, funziona lo stesso. Però ti ripeto, quando tu vai a comprare una MP5, una MP4, 60 euro, ti trovi un MC60 usato, buono, 60 euro. Sì, sì, sì. Ma come esce alla più fine? Come esce l'MP5 qua, uguale all'MC60. Ah, vero? Vero, due volte non vuoi sentire? Meglio viaggio, mi. MP5 testato Kenwood, alimentazione diretta. Capo, dica. Ah, pensa, funzionava bene. Funziona bene. Se ti devo sentire il mio cuore, a me non cambia niente. Ah, fine, capo. È buono, è buono. Luca, non l'hai mai sentito quando ci aveva il 140 con l'MP4? Non l'hai mai inteso? Che è una bomba. Già, ti inteso, già. Anche perché l'ha fatto? Perché se l'ha venduto e se ne sono soldi. Cappa. Ui. Se lo dovessi prendere io, almeno mi dura una vita. Sì, Antonio, non è mai dire mai, capito? Io ne ho avuto tanti, poi li vendevo, poi me li ricompravo, li vendevo e me li ricompravo. Capita che vuoi cambiare, io problemi soldi ne ho mai avuto, però per cambiare li vendevo, poi li riprendevo, li vendevo, li prendevo, capito? Sì, non sai cosa è, Frank, e a me è una cosa che mi dura un sacco di anni, perché cioè, c'ho roba a capo da anni e anni. Perché non, cioè non la rovino, capito? Me la tengo sempre poi. Non posso avere neanche soldi, però sono talmente iroso che no. Cioè, se te lo devi, se una cosa te la devo regalare, te la regalo, Però se una cosa me lo devo tenere, c'ho talmente la gelosia che no, proprio no. Rimane sempre immacolata lì. Cioè, non hai capito cosa ti voglio dire. Cioè, ti ricordi, cioè, quanti anni ce l'ho adesso? Ti ricordi quello, il B150? Sempre me l'ho tenuto, sempre. Non l'ho mai dato a nessuno. Tutto io ho 430, ce l'ho 10 anni. Capito? 140 ne avrò avuto 10, li ho sempre venduti, poi me li sono ricomprati. 440 ne ho avuto 9. L'ultimo che ho venduto io ce l'avevo 7 anni, Antò, 7 anni, capito? E l'ho venduto perché ho deciso di non comprarne più, perché creano un sacco di problemi i 440. E quindi mi sono comprato un 140. Però il 430 che io ho 10 anni, ed è nuovo, nuovo, nuovo. Sì, sì, sì. Beh, no, già durare gli anni. Ma boh, non lo so, pure io sono fatto così. So che io a vendere, sono molto, molto restio, capito? È capace che magari una cavolata, è capace che ti urrighiara, però a venditiro no. Poi c'è una cosa che serve a me, non te ne do. Ma io sono una ragazzina del mondo della radio, capito? Sono molto più valente, quindi compra vendi lo fanno tutti, però poi devi riprendere altre radio, non è che te le vendi e ti mangi i soldi e non è una e l'altra, no, io compro per ricomprare cose, radio o magari di ultima generazione o superiori, tutto qua, capito? Scappa, ma te vendi questa radio, che togna segnare? Niente mi stai riempiendo adesso. Non ho capito tutto. Ho detto che quasi tutte le linee mi stai riempiendo. Cioè sei a fondo scala quasi. Beh, io sto scendo con 10 watt e 30 modulati in questa radio. 10 watt e 30 modulati, ce li ho tutte così. Tutte a 10-20 watt, non di più. 430 è a 20 watt di portante, 140 questo è a 10 watt di portante. Sì, sto diventato, dimmi tutto. Sì, K, poco fa ti abbiamo rilanciato e non c'eri. E mi ha chiamato Simona più che altro. Sono l'aggredisco con la verità. Allora per mille spalle mi ha chiamato. Sì, quando mai? Ho quattro fatte, curiosità, quanto ti arrivo io a te? Trova un po', te lo dico subito. 1, 2, 3, prova. 9:20. Se già va bene, dai. No, poca roba, sto spingendo poco. No, non mi interessa spingere. Va bene. Cosa vuoi ti dica io? E siccome come si deve, a un certo punto. Ci mancherebbe. Sai quanti sacrifici vogliono fare con la radio? Oi. Vabbè, pazienza, è un hobby e dobbiamo portarlo come hobby però, eh? Attenzione, portiamolo come hobby. Mai nessuno se ne deve uscire di casa con la radio, perché sennò non va bene. Non va bene, no. Ma infatti io prima me ne sono i miei problemi. Poi te lo dico, che mi metto su da parte, te lo dico quando sono pronto. Io dispongo di questo budget, cosa si può acciappare? Punto di domanda. Guarda, quando tu c'hai un budget di 200 euro già riesci a trovare qualcosa del genere. Massimo 20-30 euro in più, ma non vale mai 50 euro in più, ma c'è una bellissima radio. Cappa. Io adesso no, crack, come ti ho detto, sono un pochettino, mi devo togliere un po' garito da mezza. Poi dopo che mi tolgo, te lo dico e via, procediamo. Scusa che stavo commutando. Allora, questo invece è il 430, noti differenza, quanto spinge? Quello era il 140 e questo è il 430. Pompa. Pompa? Vedi, questa c'ha 10 anni la radio, ed è fiammante. Fiammante, mai stati fatti lavori particolari, l'unico lavoro che è stato fatto da una persona è il display perché si erano bruciati gli ultimi due decimali e basta, sempre bella, ordinata, funzionante, perfetta, e questa non uscirà mai da qua, mai, perché è una radio che non si trova e se le trovi tutte meno esse. Questa invece è la mia, io l'ho comprata da un radioamatore molto conosciuto e ce l'ho 10 anni. Fatto bene, non tu, cioè, la tiri tu e basta. No, ti stavo dicendo, che adesso un po' sono, quando stavi commutando non mi hai sentito, un po' carino dopo voi, impasticciato. Appena che mi esco un pochettino dai pasticci, mi avete su da parte, te lo dico. Prendiamo. Sì, con il budget che si prende appunto e basta. Ma che funzioni bene. Io te l'ho detto, non ti preoccupare, non te devi uscire di casa. Quando hai la disponibilità tu la compri una di queste radio. E dopo certo ti ripeto che ti diverti tantissimo, perché non c'è nessuno, te ne vai nel mondo amatoriale, ti metti ad ascoltare. Sono dei corsi molto importanti dove puoi anche, perché no, imparare qualcosa, capito? A volte sono dei bellissimi corsi, soprattutto in 40 metri, il pomeriggio, la sera, in 80, soprattutto persone anziane che parlano di radio, di modifiche, di cose, ed è anche bello ascoltare. E poi commuti, metti UFO, UFOB da una parte, ti metti gli HF, dall'altra parte ti metti la 27. Capito? Come c'ho io. Memorizzato nella 27 con UFO delle memorie, con la sintonia continua vado in HF, ad ascoltare, a fare, a girare, capito? No, c'è una radio, un apparato, come li chiamo io. I baracchini sono baracchini, gli apparati sono gli HF, come è un 140, anche se lo chiamo baracchino sintonia continua, perché effettivamente è molto semplice da usare, molto maneggevole, non è complicato, è semplicissimo, e quindi è così. serve. Per gli stessi soldi di un Galaxy Saturn, ecco, che per me può essere il miglior baracchino piacevole, come dicono tutti. Funzionante e piacevole, sempre un baracchino, non è una KF, è una fagubola. Vai Antonio. E io qui. La verità è così. A un certo punto, poi deciderà lui, altro non posso dirgli. Cosa devo dire? Io quell'apparato l'ho già avuto, il problema è che io abito qua, invece dove abita lui, quell'apparato è proprio un bonbon, perché non ci sono niente, le scariche elettriche, non c'è niente, la verità. Quindi fatevi a un certo punto. L'avrei voluto regalare, ma non posso, purtroppo non posso, se non l'avrei anche regalato Antonio. L'avrei fatto quel regalo di Natale, purtroppo così. Se no, magari, la verità magari, guarda. Antonio, mi sarebbe piaciuto regalarti una cosa del genere, la verità si dica. Vabbè, quando potrò me lo compro, c'è un problema. Adesso devo risolvermi le cose, ma piano piano già sto costruendo tutto, là. Sto risolvendo un pochettino di casini e poi me lo prendo. Si battaglia forte, con tutto si battaglia. Vabbè. Dai, ragazzi. Grazie, vecchiate, sono 10:15, vado a vedere un po' di TV e poi me ne farò a nanna. Ok? Ciao Antonio, ciao Antonello e ciao a tutti gli ascoltoni. Che ce ne sono tanti. Buonanotte a tutti, a domani, fatevi sentire domani che ci facciamo gli auguri di fine anno, finalmente stanno di merda, ce n'è andato, speriamo meglio. Ciao, buonanotte a tutti, vai Antone. Ciao Claudio. A domani notte, guarda. Secondo me lo cambierò una bello bello, poi si vedrà a un certo punto. Mi auguro un buon anno a tutti quelli che ci ascoltano, tutti quelli che sono CB e non CB, quello che è, e sono i maniaci da ascolti, eccetera, vabbè, comunque sia. Se ci sentiamo domani mattina o domani sera, quello che vogliono entrare, secondo me, sono gli accetti, chiunque sia, e speriamo bene. E se non entrano ti si secca il pisello domani sera e non codano, quindi devono entrare tutti i CB di Sassari, quello che è. Chi non entra domani sera entra alle 7:30, alle 8 di sera ti si secca il pisello. Il discorso è quello. Sai cosa si decide di ascolto qua? E te lo dico io, fregatene, deve essere, sai quante gente entra? Per dire no, io gli faccio la messa, gli faccio guarda, ti succede, gli faccio la messa, deve essere, prima di mezzanotte faccio la messa in modo che non possano codare. Quindi a un certo punto devo entrare prima delle 11 di notte domani sera, perché mi diverto qua, veramente mi diverto. Ma finirà Antonio, ma quando mai? Già entriamo, no, già non c'è problema. Tanto c'è lo sempre di chiede che l'ascolto fa, l'onfio fa. Dai bacino. Mi senti? Buonanotte cara. Ma dopo vieni là? Sì, certo che vengo là. Sicuro? Sì. Va bene. Ok. Chiudo qua la porta. No. quella è tranquilla, guarda. Sì. Il cavolo, sì. Senti, vado subito, non ti preoccupare. Va bene. Sono tranquilla. Ok. Visto, eh? Sì, ok. Dai, Antonio, dai, io vado giù, faccio la doccia, anche se domani mattina mi devo svegliare alle 5 e mezza. Rottura di coglione. Buonanotte Antonio, mi ha fatto piacere, buonanotte a tutti. Antonio, chiude le trasmissioni, ciao ciao, ci sentiamo domani. E non ti preoccupare che io già faccio lo stesso, non ti preoccupare. D'accordo, ok, non c'è problema per quello, non ti preoccupare, e ci mancherebbe. Buonanotte, buon tutto. Allora di sera, quando rientri da lavoro. Io già trombo sempre, non ti preoccupare. Ciao ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte anche a te. Alle prossime.